State per ascoltare la replica di Edit del 29 settembre 2007. Ospiti i riflessi. Broadcast Italia. La storia e le voci delle radio quando erano libere. Broadcast Italia presenta Edit. I riflessi. Gruppo ospite di questa sera, Edit. Riflessi. Quello che stiamo ascoltando? Se ne ieri sera su YouTube ho beccato un bassista che mi rifaceva praticamente tutto il pezzo del pezzo degli Yes, Roundabout, Long Distance, quello e un altro di cui vado piuttosto matto. Puoi aprire completamente i microfoni, Max, che sei lì alla console. Il gruppo chiamato Riflessi, perché dei riflessi sembra una cosa un po'... Però se li vedesti come sono vestiti, bellissimi, perfetto, un look perfetto, esattamente come sono sulla copertina del disco. Perché hanno fatto un disco e l'hanno portato qui da noi, che noi praticamente vorremmo ascoltare. MySpace Generation di nuovo qui a Edit, a Broadcast Italia. Lo studio si è riempito, loro sono qui, tossite un po', fatevi sentire. No, sono tutti, ok. Così sembra uno spizio. No, che io, quando mi hanno detto questa sera ci sono i riflessi, dico ok, ma io non so nulla di loro. Come, sei un DJ? No, io proprio non so nulla di loro, e come faccio? Quindi sono andato su MySpace a sentire un po' di cose. Ma siccome... Vorrei sentire il finale di questo pezzo, Max? Allora dicevo, mi sono messo su MySpace per sentire un po' della vostra musica, ma siccome c'era un casino a casa, tutti i ragazzini che urlavano, io non sono riuscito a sentire niente. Ma l'unica cosa che il mio vecchio orecchio da esperto musicale è riuscito a cogliere è un lavoro interessante sui testi, di cui probabilmente parleremo dopo. Sì. Ah, ci siete? Sì, signori, i riflessi qui in studio con noi a Edit. Bene, come possiamo presentarlo? Un gruppo che non conosciamo, ma ascoltando sua musica. Allora, Max, quando tu sei pronto? Anche il DJ che parla un po' inglese a volte può funzionare. No, con voi anche vestiti in questo modo, sì, viene un po' una cosa di questo tipo. Ma Edit, Broadcast Italia, Riflessi, il brano si chiama... Più niente da dire. No. Come? In che tempo è questo pezzo? Dixie, 4/4. E quindi c'è qualcuno che viene tagliato prima di iniziare il pezzo, che fa 1, 2, 3, 4. Fa lui. C'è qualcuno che può fare prima di partire il pezzo? Fa l'iniziazione di Charleston. Ok. sratututututa. Un po' prima. Quando non avrai più niente da dire, ricorderai quel che hai detto e non hai fatto mai. Quando piangerai guardando una foto, tu capirai quello è il passato e non ritorna più. Quando capirai che quello non era certo il modo, ti pentirai. Quando non avrai più niente da dire, se lo so, tu mi penserai. Mille baci, mille notti, tu ti sei scordata tutto quanto, non credevo, no. Niente da dire, non mi sembra proprio niente da dire. Io vi faccio un bravi, ragazzi. Non sapevo nulla di voi, non so niente di voi, però mi sembra che ho trovato un sistema per capire qual è il climax di voi. Come nasce Riflessi? Perché nasce Riflessi? Quando nasce Riflessi? Cioè, se uno di voi vuole fare il giornalista cretino, qual è la domanda più cretina che io puoi fare per voi? Beh, questa è abbastanza. questa è abbastanza stupida. Andiamo sì. Abbastanza bene, sì. Cosa ci piace dell'Italia? Non so. No, no, per esempio di che squadra sei? No, questa no, domanda puoi evitare. No, io non guardo no, caso. Perché no. Neanche io. Bene, siamo un bel gruppo allora. Sì, sì, bene, sì. Ci fa piacere. Dunque, mentre tutti sono nelle automobili per fare il sabato sera in questa città, noi siamo qui in studio a Broadcast Italia con Erit per presentare un nuovo gruppo italiano. Italiano? Sì, sì, sì, sicuri? Italiani? Orvietano però. Oh, Orvieto, sì, è ancora Italia per un poco tempo, ma che questo è un gruppo che si chiama Riflessi. Ok, come nasce Riflessi, seriamente? Allora, chi vuole giocare col microfono? Bene, passa la parola al fondatore storico, insomma. Sì, diciamo che sono rimasto. Il sono più vecchio sono del gruppo che è il più giovane. Il più giovane, esattamente. innanzitutto nasce con due F, quello va ricordato perché ci tenevamo particolarmente a avere un gioco di parole nel nome, quindi Riflessi. C'è chi poi ci sfotta dicendo che siamo Riflessi, però. Questo significa che su MySpace ho sbagliato gruppo. Ecco, li conosciamo pure noi comunque. Abbiamo trovati già sul cornetto agile. Ops. Mi sembrava una musica molto diversa. Comunque, nasceva inizialmente con l'intento di fare musica anni 60, quindi cominciamo come un po' tutti, come con cover, pezzettini così. Poi piano piano ci siamo, la formazione si è evoluta fino diciamo, a un paio di anni fa e abbiamo deciso di portare avanti questo progetto in cui sì, la componente anni 60 è molto preponderante, molto presente, però diciamo le influenze di ognuno di noi che sono molto differenti, infatti quando chiederai anche agli altri sentirai che ognuno viene da percorsi diversissimi, vengono tutte portate in questo gruppo e viene fuori uno stile piuttosto particolare, che dire anni 60 è riduttivo insomma, poi sentirai, ora Sì, perché poi ormai gli anni 60 sono passati, quindi adesso nessuno conosce più musica anni 60, quindi per questi gruppi nuovi, per questa gente nuova, è musica nuova questa. Questa è musica, diciamo, che affonda le radici nella musica del passato, ma diciamo cerca di essere, come dire, di prendere il buono e di migliorare qualcosa. Cioè, ci teniamo molto alle voci, agli impasti vocali che sono tipici degli anni 60. C'è un altro brano che possiamo ascoltare adesso, subito, io dopo aver sentito prima andare, però. Vogliamo andare subito sul grande classico? Oppure... Dipende se c'è 1, 2, 3 all'inizio oppure dopo. Cioè, più o meno tutti hanno il 1, 2, 3 all'inizio. Ah, oh, perfetto, è quello che volevo io. Che numero allora di questo di questo riflesso? Numero 7. Dal nome a questo sarebbe il nostro secondo. No, diciamo che il primo all'EP. Sì, va bene, il primo all'EP, abbiamo fatto due piccoli EP con 6 pezzi, e questo, diciamo, è il disco che li racchiude nella summa, diciamo. Mi sembra che già abbia una sua confezione abbastanza precisa. Vero, sì, fatta a mano, però. No. Tutto con i nostri mezzi. Bravissimi, hanno una... È bello anche da tenere in mano, perché finalmente è carta, vero, cartone. Sembra un disco vero, nel senso non c'è la plastica del CD. Vero. E quindi a me, che sono un vecchietto rispetto a voi, diciamo così, mi dà la sensazione... anche profumistica. Questa è camera mia, però. Sì, no, questa, di camera mia. Camera tua, no, mi dà l'idea di tenere in mano un LP. Dentro ha una copertina più piccola di carta con il nostro timbro e con i nostri numeri telefonici, quindi tutti i fan e tutte le fan che avranno i nostri numeri, insomma, dovranno prendere. Senti, avete già distribuito questo disco e si può ascoltare questo disco e prendere su MySpace o dove avete su MySpace avuto? Ci sono solamente 4 brani e tra l'altro, infatti, direi stasera vi dico di far ascoltare qualcos'altro anche che su MySpace, così cogliamo l'occasione. Questo disco si può prendere nei nostri concerti, lo diamo così, si regala, perché tanto non ce lo comprano. La speranza di guadagnarci qualcosa è proprio minimo. Siete prossimi a qualche concerto, a qualche serata? Sì, qui. È molto importante il 16 novembre al Micca Club qui a Roma. Micca Club, Micca. Pietro Micca, perché sta in zona? Zona Micca. Zona Termini. Zona Micca. Ah sì, zona Termini, sì, a pochissimo dalla zona. Quindi al Micca Club i Riflessi. Bravo. Perché... Sì. Questo Riflessi mi ricorda un marchio di una etichetta Decca molto antica, e aveva sul lato uno dei tanti logos qualcosa con c'era una doppia che mi fa ricordare questa cosa. Lo so, però diciamo che anche questa è una cosa tipicamente presa dagli anni 60, ovvero il gioco di parole con qualcosa, con qualche nome che abbia a che fare con la musica, quindi riff di chitarra, Riflessi. Ragazzi, questi mi piacciono sempre di più. Io vorrei ascoltare qualche altra cosa. Comincio a farmi l'acquolina in bocca. Facciamo un'estate con te. Allora, Max, un'estate con te che dovrebbe essere, lo sai, lo già ce l'hai tu lì, sì. Ok. Vabbè, diciamo noi. La canzone da spiaggia? Vabbè, siamo ancora reduci, diciamo, nel periodo in cui stiamo trasmettendo. La spiaggia è ancora vicina, quindi probabilmente qualcuno domani ci andrà di nuovo, chissà. Anche quest'estate niente come sempre mi è rimasto solo il sole sulla pelle, perché ancora lo sento e ripenso all'olio solare che scorre su di te. Sulle onde insieme a te. Poi come negli anni 60 la musica è una stanza per essere da solo con te. Sai che voglio fare, sir? Lo voglio fare solo con te. Non so dove porta l'onda, ma tu vieni con me. Triste viaggio di ritorno, dormo e forse sogno ancora un'estate con e cerco quella foto che poi non ti ho scattato mai. Triste viaggio di ritorno, dormo e poi quel sogno ancora sempre più insistente in me. Superato il limite e anche se non pensi più a me, infinitamente voglio l'estate con te. Oh, finalmente qualcuno che fa i finali e gli inizi. Qui tagliano sempre tutto in fase di produzione. No, stavo parlando del fatto che i riflessi che sono ospiti qui a Edit questa sera a Broadcast Italia spesso suonano nelle condizioni in cui avete visto anche altri nostri amici su MySpace nel nostro studio, quindi tutti e quattro insieme così molto molto ravvicinati sì. La chitarra dove la metti? Nello stomaco sì. Suo? Sì, no, tra l'altro ci vuole tutta una serie di accorgimenti perché io sono mancino, quindi se no do le palettate di basso. Senti, al contrario. La batteria è una batteria normale oppure hai una batteria rockabilly tipo, non so, ma un rullante piatto? Una Birle? No, normale. Normale. La batteria è normale, il batterista no. Batterista no? Ok, questo è importante che il batterista non sia normale. Deve essere... Me lo spiega lui perché. Ma il radio non si capisce. È stato... No, in realtà è perché comunque io vengo da un background differente, perché fino a pochi anni fa comunque ho suonato in esperienze, diciamo, un po' più estreme, che ne so, i metal, death, no, estreme musicalmente, no estreme. La chitarra, tra l'altro. Tra l'altro, ecco, la chitarra e in qualità di cantante. Ma perché ridevano su estreme, scusa? Qualche perversione. No, c'era c'è qualcosa. Penso, sì, io sono maliziosi sti ragazzi. Non mi ricordo di come si chiama. Ah, sì, perché tra l'altro, sì, no, tra l'altro perché... Richard Benson. Ah, no, vabbè, no. No, tra l'altro lui... Lo conobbi all'epoca quando io avevo ancora capelli lunghi, suonavo i metal e lui era già dedito. Io ho ancora capelli, sì. Lui era già dedito, diciamo, a questo genere, poi lui si è trasferito a Viterbo. Facevo la seconda media, E ci siamo rincontrati in questo contesto e praticamente niente, c'è un anomalo perché comunque in realtà io sarei un chitarrista. Sono arrangiato, batterista. L'unico per motivi di affetto sostanzialmente, perché. Ma è bellissima questa cosa. È proprio un po' lo spirito del gruppo, come appunto succedeva. Gli anni 50-60 si chiamava a suonare il fratello, ma anche se magari non aveva mai preso in mano lo strumento. Che vorresti perché... dire che suona più? Quello è inteso. No, però nel senso anche io alla fine ho preso la chitarra in mano quando sono entrato nel gruppo più che altro per cantare, però la chitarra l'ho presa. Chi è che sta parlando? Ritmica. Stefano. Stefano che? Il... Voce e chitarra ritmica. A voce e chitarra ritmica, complimenti. Voci tutti quanti. Qui c'è il lavoro d'insieme sulle voci. Sì. Ma non solo, non esiste un singolo cantante, diciamo, un frontman, un cantante solista. Ci alterniamo a seconda di chi ha scritto la canzone, a seconda di chi magari preferisce cantare in quel pezzo. Scrivete insieme oppure qualcuno porta un pezzo ieri mi facciamo un'idea. Facciamo gara chi ne porta di più. No, questo è per un produttore sarebbe una manna. Ma allora questo diciamolo che questa è la dire che in questo periodo particolare sì, diciamo che i pezzi erano nei periodi c'è il disco? Sì, un po' più elaborati insieme. L'ultimissima produzione per motivi diciamo contingenziali eccetera sono più diciamo in mano a Enrico, che è quello che si occupa sostanzialmente, quello che non c'ha un cavolo da fare giorno. Comunque che sta davanti al pianoforte? No, io alla chitarra? Io sono il basso, però il basso. Sì, no, studio pianoforte effettivamente, c'hai vedi. Luca è l'unico che studia chitarra e suona chitarra, è solista. Luca Pepe è chitarra basso. Il solista, c'è qualche brano di questi qua dove c'è qualche frammento di virtuosismo vostro? Perché sento che invece forse su stasera io e te. La numero 13, sì, l'ascoltiamo. Diciamo il pezzo che fa capire quanto si passi sia dalla musica beat oppure surf degli anni 60 a qualcosa di un po' più elaborato, insomma. Questa è che è un po' più particolare. Ci sono un po' di organetti, qualche riferimento, un po' di risate psichedelico. Ladies and gentlemen, riflessi da un disco che si chiama Solo poche ore. Il brano che stiamo per ascoltare si chiama Stasera io e te. Riflessi. Sono così emozionato di star qui con te, io e te insieme questa sera. Il desiderio che ho è di riaverti con me. Ti farò provare un'emozione vera. Sento già un brivido che sale. La scossa che ti darò sarà così forte che ti sembrerà di essere rinata. Tesoro, scusa, però l'unica cosa per te era di ricorrere alla magia nera. Ma com'è? Vieni, ti ha saltato in mente. così e di bruciare uno stop, di ammazzarti e costringermi a far questo per te, stasera io e te, stasera io e te. Questa risata no, aspetta che c'è qualcuno, c'è qualcosa ancora al finale. C'era un cuore o una campana? Un cuore che batte. O la Black Sabbath. Un cuore e una campana, un po' Pink Floyd, un po' Black Sabbath, un po', non so, Kinks. Un po' il parroco Kinks. La domenica. che roba, che musica ascoltate? Veramente tante cose. Io penso di essere l'unico che si è fossilizzato veramente sulla musica degli anni 60, più tardi del 70, perché, oppure anche di prima, anni 50, 40, così. Quindi Buddy Holly. Buddy Holly, ma soprattutto i gruppi mi piacciono, quindi sia più i famosi, quindi Beatles, Beach Boys, ma anche Monkees, Kinks, Searchers, Animals. Stavo per portare un LP degli Animals, ce l'avevo azzeccato in Marcel. I Marcels, abbiamo scoperti di recente, i Marcels. I Boppers, vabbè, sempre sì, sconosciuti. Sì. I Motorettas? No, no. È un 45 giri degli anni 60, ma erano italiani. I Pelati? No, ma ecco, sulla musica italiana sono un po' poco ferrato, purtroppo. Dovrei portare la prossima volta che ci incontriamo, se tornerete qui, anzi, volentieri, senz'altro tornerete qui perché ci piacete molto. Magari porterò un assaggio di questi 45 giri d'epoca con questi nomi, e magari dietro questi nomi buffi o anche simpatici c'erano musicisti che poi hanno continuato nel tempo. Tu ascolti soprattutto musica anni 60, fine anni 50. Sì. E voi quali sono i vostri amori? Quando vi fate la barba? Beh, ce l'avete la barba? Non ce l'hanno la barba. I principali sono i Black Sabbath, ovviamente, con Ozzy Osbourne, e Queen, che sono, insomma, il primo gruppo che mi abbia appassionato, insomma. Però per il resto, ecco, a me piace anche il jazz, soprattutto quello degli anni 30, come Django Reinhardt, con l'orchestra di Stefan Grappelli, però anche musica classica contemporanea, però tuttora, anche se non lo suono più, però ascolto ancora heavy metal, sia anni 80 che più recente. L'heavy metal, come un certo tipo di rock, era sempre stato accomunato un po' alla musica classica, no? Un nome sì, più altisonante fra tutti, che non è né heavy metal, ma è un hard rock un po' pomposo, i Deep Purple. Certo, Blackmore, che è stato, insomma, un po' il promotore del rock neoclassico, poi dopo, vabbè, anche Malmsteen, così. Chi sa i Malmsteen? No, Malmsteen, io non so niente, non, non sono proprio nulla. Un velocista. Si vestiva tutto barocco. Tutto barocco. Non so nulla, non lo conosco. Non lo conosco. Vabbè. Bene, che domanda farebbe il disgioco di cretino a questo punto? Cioè, tu ci hai fatto un po' di domande in realtà, che poi non riusciamo a parte che penso che. Stefano, abbiamo ancora altre influenze, come Luca abbiamo ancora altre influenze. Beh, per genere, no, aspetti, vado di là perché forse... non vorrei prendere qualcosa. Cosa? No, dell'influenza. Era una battuta cretina? Doveva passare. Grazie. Danke. Guarda, che se vogliamo leccare, comunque, io so una cosa più carina. Che lui era lì da Harvey Oswald su JFK, un film che io. Se io conosco molto bene il sito, Antonio Genna. Antonio, Antonio, sì, infatti ha messo praticamente solo quella clip. Io ce ne ho mandate altre perché ormai quella è. Piace molto quel mondo. È vecchia. Questo per dire che Edith comunque fa anche un'altra cosa, oltre, cioè lavora un po' con la voce. No, ma se voi seguite i Griffin, vi posso anticipare che sono Quagmire dei Griffin. No, sì. Non sarà ti, vero. Ti prego, io sono no, Quagmire. Ci devi far sentire qualcosa perché te io prego, ho un amico che lo adora. Gigiti. No, grandioso. Dai, tremendo. Grandioso. Ragazzi, ce l'ho fatta, sono entrato nel mondo. Eh? Che cacchio di demone è stato? Che cacchio è il coso? Peter dice cacchio. Ehi Peter, ce l'hai le mutande? Allora, noi credo abbiamo però un doppiatore di un'altra serie televisiva molto importante, molto famosa. Bene, è uscito un film, sì. Non so, i Simpson li conoscete bene. Come no, sì. Abbiamo un personaggio qui molto famoso. Ah, sì. Ah, Barney... Ehi Omar, sono preoccupato per la scorta di birra. Dopo questa cassa e l'altra cassa ci rimane una sola cassa. Demo Barney, io sono Carl dei Simpson. Se Carl, se Carl, no, sei lui. No, è un mito, ragazzi. Demo, allora guarda, andiamo a presentare Carlo i riflessi con due F, mi raccomando. Solo poche ore. Non vi preoccupate, non è che stiamo qui delle ore, ma datemi un numero perché un gruppo fortissimo qui ospite questa sera a Edit a Broadcast Italia. Stiamo scoprendo i nostri secondi lavori. Qui c'è una discussione su brani che non ci sono su MySpace. Ma noi queste cose va sciogliendo per venire le ansie. Si sta sciogliendo il gruppo? No. Non so se sai alcuni aneddoti del re della scena. Non vi preoccupate, vi farò da produttore se volete. 9. La numero 9. Number 9. Qui la gente che ascolta. Vabbè, citazioni che si perdono di qua e di là. Number 9. Massimo, ti posso chiedere un favore? La puoi far partire proprio dall'inizio? Con il volume a palla della console senza sfumarla? Vedi un po' se ci riusciamo, perché mi piace più la partenza secca anziché quella morbida. Quando sei pronto la riannuncio, faccio c'è il mare all'inizio. Number 9. Dammi la tua mano e poi saremo insieme, la mia mano, e noi saremo in cima a un'onda, e questo perché noi faremo surf. Ora hai capito, vuoi pensarci? Sì, un minuto. E mi immagino appunto verso il mare con la mia tavola da sé. Pieni le acque, spiagge gli istanti, entriamo insieme, non saremo tanti. Prova a guidare, io ho nessuno, io ho già battuto il mondo. Dammi la tua mano, poi saremo insieme. Saremo in cima a un'onda, e questo perché noi faremo surf. Quando senti l'onda che ti prende, ti trascina in basso, giù si scende, ma poi verso il cielo si risale. Ti dici questo surf non è poi così male. Saremo in cima a un'onda, e questo perché noi faremo surf. Noi faremo surf. Noi faremo surf. Noi faremo surf. Scina Isa Punk Rocker. c'è un ricordo, Sheena is a punk rocker, Sheena is... Guarda, se ci trovi plagi è possibilissimo. Non plagi, che mi ricorda assolutamente, questo potrebbe è un pezzo. Essere, abbiamo io non l'ho mai conosciuto, io ti dico, siccome ascolto musica anni 60, possono essere cose della musica anni 60 prima, perché poi se mi dici punk rock io non l'ho mai ascoltato, quindi buona fede, insomma. Sì, questa è una canzone dei Ramones, se non sbaglio, la Sheena is a punk rocker. Ah, sì. Che era poi in una raccolta dove c'era addirittura Patti Smith in un disco che poi era abbastanza introvabile, una raccolta che pubblicarono in Italia con i 999, i Sex Pistols, Ramones, eccetera, nel periodo in cui il punk rock stava spandendosi in Italia. Io beccai uno sputo in faccia quando dai 999 all'altro mondo. Quando ci arrivato in Italia? 85-70 cominciano a nascere la scena. Primi anni 80, mi sbaglio? 81? No, possibile? Io ho 2 anni, quindi. No, perché comunque in Italia vengono sempre. Non lo dite dopo così ad alta voce. Beh, in Inghilterra intorno al 77 uscì un po' il fenomeno. Sì, la seconda metà degli anni. È vero, perché io stavo in Inghilterra proprio in quel periodo là e sì, effettivamente sì, c'era. 2-3 anni di scarto. Io andavo ancora alla ricerca dei Genesis, però insomma. Sì, già era nato in quel periodo, il periodo del punk. Ma noi siamo qui per parlare dei riflessi, con due F, lo dico perché io praticamente prima di venire qua volevo ascoltare qualcosa del gruppo per essere un pochino più informato, invece non sapevo assolutamente nulla, sono rimasto ignorante perché ho beccato un altro gruppo che si chiama Riflessi, ce ne sono probabilmente un paio su MySpace, e questo è impossibile sbagliarsi perché si chiamano i Riflessi. Sono quattro personaggi direi piuttosto simpatici, abbiamo fatto subito grande amicizia. Se David verrà a farci la ripresa, sicuramente li rivedrete sul nostro sito anche in video. E intanto il bravo DJ che domanda fa a questo punto, quali sono? Avete prodotto tutto da soli? Avete suonato tutto da soli? Sì. C'è un produttore che... No. Considera che alcuni pezzi sono stati registrati in uno studio perché riuscimmo a vincere un concorso a Viterbo, alcuni di questo CD, e quelli sono gli unici che appunto sono stati registrati in maniera più professionale, quindi in ogni modo in un paio di sedute, con una terza che fu solamente per il mixaggio, quindi si occuparono gli altri. Eravate già pronti in sostanza. Noi addirittura andammo contro il volere di questi della sala dell'Avalon Studio, tra l'altro uno studio di Montecascone, quindi dalle parti nostre. E, solo che loro preferivano fare una cosa più curata ma con meno pezzi, invece noi siccome siamo compositori come dire assidui, quindi nuovi pezzi ogni settimana, dicevano no, 7 pezzi o niente, perché volevamo assolutamente farne tanti. Gli altri, i restanti 6 di questi 13, sono stati fatti invece totalmente in casa, quindi nella cantina nel garage di Nicola, la batteria con proprio 2 microfonacci, è stato un lavoro, guarda, ingrato. Mi state dicendo che avete suonato tutto dal vivo? No, dal vivo o quasi, no, o quasi solo, completamente. No, guarda, addirittura che il primo disco comunque batteria, basso e chitarra sono state registrate diretta. Non si fanno più i dischi, no, dal vivo. Guarda, no, noi infatti la cosa strana è questa, che il disco che abbiamo fatto in sala di incisione per risparmiare tempo l'abbiamo fatto praticamente dal vivo, diciamo, basso, batteria e chitarra. Poi ovviamente, mentre l'altro non avendo i mezzi per entrare tanti su più piste, abbiamo dovuto fare uno per uno, e secondo me i pezzi sono venuti carini, ma quello che vorrei provare più che altro perché abbiamo dedicato più tempo nel mixaggio, cioè nella fase, avendo tanto tempo a disposizione, non so, provavamo una chitarra, cambiavamo suono, provavamo voci, cambiavamo i suoni, insomma abbiamo avuto tempo di giocarci un po' di più e diciamo che siamo arrivati un po' più vicini al risultato. Che però nel prossimo vorrei provare a fare qualcosa anche in qualche pezzo, qualcosa più dal vivo, proprio perché non si perda troppo l'atmosfera che c'è quando si sono tutti insieme, insomma. Cioè, secondo me dovreste provarci, perché siete, da quello che sento, siete un gruppo capace di fare questo. Sai che in studio può succedere che, siccome ovviamente lo sai, gli studi costano tanto, no? Uno deve concentrare tutto in 2 giorni, ad esempio. Allora ti metti lì, ma non è che c'è tanto tempo di provare vari suoni, provare vari mixaggi. Invece da solo magari hai i mezzi più limitati, meno capacità di registrazione. La domanda però a questo punto è: dove provate? Ci avete una cantina, un posto, un garage? Sì, insomma. Noi abbiamo un paio di punti in cui proviamo, nel senso, anzi tre diciamo. Quindi uno è una sala prove a Viterbo dove riusciamo a provare. Non dire l'indirizzo perché dopo questa trasmissione, se qualcuno l'ascolterà, verranno a bussarvi alla serranda. No, spero, i riflessi suonano a Viterbo. Perché stanno anche aprendo una scuola di musica lì in quella zona. Dobbiamo fare pubblicità perché ci ha sempre fatto trattato benissimo. Allora va bene, sì, fai pure pubblicità tranquillamente. Come si chiama? Sì, Viterbo Music, no, Guitar Music Academy, Music Academy, sì, di Viterbo. Academy. Comunque Guitar Music Academy di Viterbo. Nella zona del Poggino è l'unica e sta nascendo adesso, una scuola che dovrebbe essere molto carina e molto ben strutturata. Noi facciamo le prove lì tutti insieme. Quando capita invece andiamo da Nicola. Quando abbiamo possibilità andiamo al paese di Nicola, che Orvieto. È un garage parzialmente insonorizzato, per cui... Ma non vi conviene suonare direttamente in piazza la sera? No, perché l'unico... abbiamo fatto soltanto un concerto Orvieto in piazza e nonostante la gente fosse molto contenta, però ci sono affacciati il popolino dalle finestre, ci hanno fatto ma tu adesso dici così, dici il popolino, sei tanta gente, in te è stata una persona che c'è da dire che siamo molto contenti di vedere che questo tipo di musica magari non viene, il CD non viene comprato, non colpiamo molto perché ci vedono così in giacca e cravatta, diamo un'idea molto, come dire, composta e del passato, però abbiamo notato che suonandola nei contesti più svariati molti ballano, molti ricantichiano le canzoni mentre le ascoltano senza averle mai conosciute, perché comunque abbiamo notato che è un tipo di musica, per questo che ci piace, comunque coinvolgente, vediamo la gente, io per dire non ballo mai, però vedo tanti che ballano mentre suoniamo, è molto soddisfacente questo. Se qualcuno si sta sintonizzando adesso sul web, su Broadcast Italia, su Edit, Edit sono ospiti i Riflessi, di cui stiamo per ascoltare finalmente un altro brano musicale da questa raccolta che loro ci hanno portato e che hanno inciso praticamente in uno studio più o meno come quello che state vedendo adesso su MySpace, sul MySpace di Broadcast Italia. Ecco il gruppo, sono qui, tra poco li vedrete anche su MySpace in video. Che brano ci ascoltiamo? Dobbiamo andare col secondo, fare sempre, diciamo, più amicizia con più beat, vecchi, forse. Diciamo, più vecchi, uno dei primi composti, diciamo, dalla formazione. Il secondo, Baciami Così. Come? Baciami Così. Non è una proposta. Però l'ha detta in un modo... Lo fa sempre, infatti noi abbiamo paura di lui. Questa è una cosa che non ho. Io mi metto dall'altra parte, cambio sedia. Max, ci sei? Puoi farlo partire, ok? Finalmente avrò questa sera, anche ora, io quel bacio ti richiederò. I Riflessi a Broadcast Italia, Edit, Baciami Così. Il più bello dei miei pensieri, ma non avevo che dei sorrisi poco veri, cara. Ascolta, se quel bacio finalmente avrò questa sera, anche ora, io quel bacio ti richiederò. Non pretendo, sai, quel bacio che tu non mi hai dato mai, allora dai, baciami così. Quindi se lo vuoi, concedimi questo momento, solo un bacio e poi un addio senza rimpianto, cara, ascolta, se quel bacio finalmente avrò questa sera, anche ora, io quel bacio ti richiederò. Chi e invece qui? No, questa è una bella domanda, perché questo è uno dei pezzi che registriamo in studio ed era ancora presente un componente che adesso non c'è più e che comunque è l'autore di alcuni brani, tra l'altro di alcuni brani che continuiamo a suonare ancora adesso, che vi piace ricordare oppure è meglio non nominare per motivi... No, ci sta sul culo. Vabbè, no, non è vero. Ma è evidente, però sì. No, è evidentissimo. No, il pezzo era cantato da Enrico, che è presente, e da quest'altro ragazzo. No, lui ha preso un'altra strada e certo non è stato una, difficilmente, difficilmente le separazioni sono rose e fiori. Ma però succedono anche nei momenti più incredibili, perché no, il momento in cui stai componendo, in cui stai facendo, il gruppo sta nascendo, poi improvvisamente uno magari c'ha una proposta. Ma certo, ma pronto? Pronto? Sì. Pronto? Comunque la imbarazzante cosa, questa cosa la cosa sicuramente farà un po' gay, però diciamo che siamo comunque genitori di alcune canzoni, e io comunque voglio dire, per quanto non lo frequenti più non ci vediamo più, comunque sei la madre. No, spero di no. Comunque diciamo, ecco, non mi va di ricordarlo ancora perché comunque ho piacere di ricordarmi che abbiamo fatto dei pezzi insieme, e sono contento comunque che nonostante la separazione, quando lo suoniamo, quando lo studiamo sul bordello della SIAE, comunque i soldi vanno anche a lui. State attenti che questo fa storia, eh? Fa storia questo? Cominciate ad essere un gruppo che ha già una storia alle spalle. Ma qui l'età media è alta, quindi tanti hanno una storia. Le storie sono il gruppo. Senti, chi sei tu? Stefano. Invece tu vicino a Stefano? Nicola. Enrico. Ah, questo me lo ricordo. Luca. E Luca. Luca suona la chitarra. Perfetto. E cantiamo tutti quanti. C'è un brano che hai composto che ti piace particolarmente? Guarda, hai suonato io un sono... Peggio? Prima loro si riferivano a un altro membro che c'era, io sono l'ultimo arrivato. Sono entrato a è più grande ma è più giovane. È più grande ma è più giovane, nel settembre del 2005 più o meno. E quando sono entrato nel gruppo, ovviamente questi brani erano già tutti composti. Alcuni erano già registrati con il precedente chitarrista, altri li abbiamo registrati e c'ero io. Però erano già composti, quindi più che altro ho curato un po' di arrangiamenti, un po' di suoni, un po' di soli. E i brani che abbiamo cominciato a comporre insieme ancora non li abbiamo registrati. Li stiamo registrando. Le CD che vi lasciamo. Guarda, allora, speriamo per appena dopo Natale. Comunque nei CD che ti abbiamo lasciato ci sono anche altri brani, come diciamo Ghost Track, sono ulteriori. E sono altri brani che noi abbiamo composto, tra cui c'è anche la sua canzone, una delle prime canzoni che ha composto con noi. E certo, adesso non ti mandiamo perché sono live, quindi non ti consiglio di mandarli, perché non hanno una grande qualità. A me piace, non hanno una grande qualità di suono, però ci sono. Se vuoi sentire, noi abbiamo piacere. Io sarei curioso, come si possono guarda rispetto col titolo. Io vogliamo fare facciamo sentire Tre Notte, poi a questo punto anche quest'onda, che è una delle ultime composte. Va benissimo. No, mi piace sentirvi dal vivo live. Allora, c'è un titolo lì, Max, che dovresti cercare sul nostro di sicuro è dopo la traccia 13, quindi dalla 14 in poi ci dovrebbe essere una canzone che si chiama Io, te e la notte. Questa è Zio Ateneo. C'è finalmente uno che fa One, two, three, io quello. Lo fa sempre. Dice anche pronti, ragazzi. Sentiamo. È questa, sì. Questa eravamo a Civitale d'Agliano, un bellissimo concerto durato 4 ore. Una festa della birra. Riflessi. Rigorosamente live. Siamo qua. Riflessi a Broadcast Italia. Io ho il futuro di pericoli e tribù, partirò per mare e per città. E in altri fatti non c'è posto per distinti, ma potrei non riuscirci, sai. Anche se non hai una fatta non ci vuoi, io te la notte non ti vuoi. Sarà dolce al buio del così, ah, un po' continuo e da domani sono io che la notte mi fa. We'll be right back. I riflessi a Broadcast Italia, edit al microfono con voi, qui erano praticamente dal vivo, ma c'era il chitarrista che suonava qui? Sì, ero io. Eri tu? Cantavo anche. Hai cantato anche? Certo. Beh, no, ho sentito, abbiamo sentito. Principale. Mentre voi eravate fuori a prendere una boccata d'aria, non un bicchiere d'acqua perché non c'è neanche l'acqua, ma le zanzare sì, noi abbiamo ascoltato invece il tuo solo finale sì. in questo pezzo live. T'ha fischiato un po' l'amplificatore, però... Sì, hai messo. No, sembrava fatto apposta. Erano le 3:30 di notte. Erano le 3:30 di notte. È stato una bellissima, un bellissimo concerto. 14 agosto dell'anno scorso. Due anni fa. Dove? Civitella. C'è qualcuno che se lo ricorda? Se c'è qualcuno che se lo ricorda, anche se c'erano non sbaglio, però vi comunico che su YouTube ci sono i video di quella serata. Ah, e perfetto. Sono divertenti, tra cui anche una bellissima Sway. Non so se la conosci, Sway di Dean Martin. No. When my rainbow... Passa tutta la musica. Prego. When my rainbow... Dance with me, sway with me, sway. Hai capito che canzone è? Sono solo mozzare la pubblicità della ok, canzone. D'accordo. Che capisse. No, vabbè. Comunque, fatto sta, c'è un bellissimo video di quella canzone, noi con i cappelli e con la chitarra acustica. Quindi su MySpace, cliccando. Su YouTube, cliccando... Riflessi con due F, escono fuori un sacco di video che... Ci sono anche due video sportivi. Riprendono loro sportivi, mentre sì, correte. No, io e Stefano facciamo skate. Quindi siccome surf a Viterbo non si può fare, noi siamo per la musica dei Beach Boys, però surf a Viterbo non si può fare, loro sono attrezzati con... Senti, ma immagino che quando voi fate skate avete le cuffiette in testa, che musica ascoltate mentre fate skate? Confessate bene un po' di... Siccome è stato cresciuto negli anni 90, io per esempio ho ascoltato molto la musica, vabbè, prima il grunge degli anni 90, Nirvana. E poi con i gruppi punk rock, quindi ci sta bene il genere di musica che sta. Senti, invece i miei gruppi del mio periodo, gli Yes, King Crimson, Genesis, non avete mai ascoltato questo? Sì, King Crimson qualcosa. In the Court of Crimson King. Vabbè, insomma è anche un altro genere. Ieri sera mi sono su YouTube, mi sono fermato su alcuni assolo dei Jethro Tull. Ogni tanto fa piacere rivederli dal vivo e YouTube è una grande possibilità di ma vedere. Viene Viterbo, che abbiamo un amico che suona in un gruppo, e tra l'altro è di Orvieto il cantante, e loro rifanno, loro si chiamano gli Wood. The Wood e suonano principalmente pezzi di Jethro Tull, e il cantante ha una bellissima voce, un tenore tra l'altro, e suona anche il flauto e lo fa perfetto, proprio un bello spettacolo. Non succedeva una volta che un altro gruppo fa pubblicità a un altro gruppo di amici? No. Se non facciamo leva sugli amici, c'è una band che stimiamo, insomma, ci fa piacere. Su MySpace quanti contatti avete ricevuto? Credo siano arrivati sui 160 grosso modo, però considera che sono pochissimi mesi che siamo su MySpace, non è tanto. Quindi siamo contenti, tra l'altro ecco, è stata una grossa opportunità per conoscere anche voi e per conoscere anche appunto il Minca Club, che ci farà suonare il 16 novembre, quindi e anche ricordiamo la serata di Torino, esatto, anche i Sunny Boys, che sono un gruppo di Torino che fanno tribute band di Beach Boys, che ci hanno permesso di suonare, ci hanno invitato, veramente bravi. Sì, no, sì, strepitosi, sì. Questa la MySpace Generation mi fa impazzire, soprattutto questo fair play, questo fair play. Se c'è gente così, io vorrei scegliere il brano che dà il titolo a questo album. Volentieri. Sbaglio? Sì. L'ha composto Stefano. L'ha composto Stefano, che è il bassista. No, Stefano no, è il chitarrista. Il bassista sei tu, Enrico. Invece il chitarrista bassista batterista. Il chitarrista batterista metal. Secondo me un pezzo senza batteria con tutta chitarra potreste pure fare. Sì, sì, ci abbiamo pensato. La suona lui sul video. Vi produrrò, Volentieri. Sì. Il mio sogno è produrre un gruppo. La batteria. La Quagmire Band, insomma. Bene. Allora, il brano che mi piacerebbe ascoltare è Number 7. Number 7, no, questo non è. Non si può citare. Number 7, no. Number 9. Fa giusto il film. 7. 7 che si chiama. Dopo ce lo prendiamo un grappino da boh? Magari. Solo poche ore. Bene, un grappino da boh. Allora è Carla che vi saluta e... I riflessi, ospiti a Broadcast Italia nello spazio Edit, il brano che stiamo per ascoltare da questo simpaticissimo gruppo, non solo simpatico, anche bravi, solo poche ore. Ooh. del mio viaggio in Giappone. Quante volte ho detto basta, adesso mollo tutto, voglio fare l'attore. Però scusi dottore, perché non mi spiega il problema che ho, così mi sbrigo un po'. Se davvero così fosse, come il cuore in gola, so poche ore. Allora con una rapina in banca uccido il professore, voglio fare l'amore. Però scusi dottore, perché non mi dice le ore che ho. Non abbassare troppo la musica, sennò si sente che stiamo mangiando. Perché il gruppo dei Riflessi hanno portato un vassoio di pasta, grazie ragazzi. Siete stati molto carini. Prego. Abbiamo fame. No, ma avete capito che anche noi a un certo momento andiamo cercando qualcosa da mangiare. Stavate discutendo mentre continuiamo ad ascoltare questo brano in sottofondo. Alza pure Max, non ti preoccupare, non lo copiamo. C'era una discussione sulla questione delle chitarre, no? Stavamo giusto dicendo che noi siamo sempre molto critici sul nostro operato, e stavamo dicendo che la canzone, una delle canzoni che stanno sul disco dal vivo, quindi non delle tracce convenzionali, diciamo, non piaceva a tutti allo stesso modo, perché insomma ci teniamo che venga bene. Comunque ve la potrete ascoltare tranquillamente, tanto di pezzi da ascoltare ce ne sono tanti. Senti, vogliamo ancora parlare di voi o con voi o ascoltare ancora musica? Cosa come vi piace, come vuoi, quindi pezzi ce ne sono. Comunque prima ci avevi chiesto da cosa fosse nata stasera io e te, se vuoi te lo raccontiamo, che è una storia particolare, insomma. Dai. Stasera io e te, è la canzone numero 13, quella che abbiamo ripetuto. 13 che abbiamo ascoltato con la risata satanica alla fine, E premetto che doveva essere la risata di Nicolo, del buon vecchio Nicolo, solo che per motivi di tempo non siamo riusciti a metterla nel mixaggio. Era nata ovviamente, come si può capire dal titolo, da una storia d'amore, ecco, quindi non doveva essere niente di particolare. E ovviamente aveva, se si sente dalla pennata, l'influenza dei Kinks. Con quelle cose stoppate, tipicamente Kinks. Mi giro un attimo. No. Prego. Se non che, diciamo, mi venne in mente questa cosa, che ecco, già di canzoni d'amore ce n'erano un sacco. Quindi sarebbe stato più carino farla d'amore, sì, ma in maniera più particolare. E per un po' di tempo ha rischiato pure di chiamarsi Victor, dato che parla, è una storia vagamente frankensteiniana, insomma, parla appunto di questa ragazza che è morta e il ragazzo che tenta di riportarla in vita, appunto, rimettendo insieme i pezzi. E il testo, diciamo, è abbastanza chiaro, insomma, ci piaceva questa canzone un po' diversa. A questo punto la riascolterei, perché dopo la spiegazione il testo prende tutta un'altra piega. Era anche in cantiere, diciamo, un seguito fedele, insomma, al romanzo di Mary Shelley, in cui ovviamente la creatura si ribella a colui che l'ha consumata. No, veramente tu avevi detto un'altra cosa, volevi che fare il seguito in cui lui non decide che non gli piace più questa ragazza e la smembra di nuovo. Ah, sì, però quella è una variante sul tema. C'è stata una discussione su questa cosa, No, ma sempre così. Hanno parlato anche i quotidiani locali di questa discussione che avete avuto. Sì. Siamo stati in carcere. Il governo ha emanato 2 o 3 emendamenti per noi. Però i testi nostri da un primo ascolto sembrano tutti banali. Testi banali. E la maggior parte lo sono, devo confessare. Alcuni lo sono, ma alcuni nascondono una realtà triste. Sconsolata. A volte, per esempio, anche con gli occhi chiusi sembra una canzoncina d'amore, poi magari se la metti. L'abbiamo mai ascoltata? No. Allora io riascolterei stasera io e te dopo la spiegazione del testo e poi partiamo quasi subito con gli occhi chiusi. Possiamo stare anche con i microfoni aperti mentre ascoltiamo la canzone, quindi ogni tanto qualche commento scappa. Allora riascoltiamo stasera io e te questa canzone nata insomma in un momento un po' di sangue, un po' difficile. Max, siamo nelle tue mani. Ah, questa era la chitarra kinkisiana, ti dicevi? Certo, sì. Per un sacco di tempo abbiamo fatto come cover il... Sono così emozionato di star qui con te. Giulica questa sera. Il desiderio che ho è con gli occhi chiusi praticamente parla di un ragazzo non vedente, quindi descrive... E anche questa era nata come canzone d'amore, poi è stata Stefano, quando io sono entrato nel gruppo, che già esisteva la canzone, avevo dato tutta un'altra interpretazione della canzone. Però se uno te lo spiega che... Però se lo spiega rimani un attimo a bocca aperta. Solo poche ore l'hai suonata diversamente però. Sì, cioè, no, io sono rimasto con la mia visione. Cioè la vedo ancora come una canzone magari in radio non allegra. Si può dire. No, direttamente un po' pure un po' maliziosa. Sì, sì, certo. In realtà c'è un motivo. Ah, si può dire sì, tutto sì, quello. Assolutamente. Lo dico adesso. Perché c'è un momento. Cioè, ovviamente questa ragazza non vede, no? E cioè, no, il ragazzo non vede. E dice delle cose alla ragazza. Vorrei però che se tu riferissi a un vecchio video che passava su YouTube in cui la ragazza che non vedeva bene. C'era scritto metti degli occhiali. No, siamo oltre. E se trovava magari a fare qualcosa. Sì, sul cambio della macchina, sì. Anziché. Sì. Okay. No, beh. L'ho visto un sì. Video. No, no, ti ho interrotto, scusami. No, non mi ricordo bene come dice le parole. Com'è? Sì, beh, dice perché continui a raccontarmi le scene di film, perché lui giustamente non vede, quindi vanno al cinema insieme e lei racconta le scene. Oppure perché. Vabbè, per lezioni non teoriche di scienza e anatomia. Che giustamente lui non ha visto mai. Quindi solo con le mani per fare per cosa. Ascolta. Non scrivete delle canzoncine. La peggiore è solo poche ore. Ma ne abbiamo fatte anche di peggiori. Tema adesso poi arriverà. Vero, comunque c'è una persona che comunque sa che ha pochi giorni di vita. Questa è l'acqua di sentina che c'è sotto i riflessi. Però più dice appunto nella canzone piuttosto che... piuttosto che morire diciamo in un letto. Ah, stai parlando della prima con gli occhi chiusi? No, questa è solo poche ore, però preferisce aspettare. Max, passiamo solo con gli occhi chiusi? È il numero uno. Così al volo, è il numero uno. Che tra l'altro è buona come pubblicità per un cornetto, secondo noi, all'inizio. Sì. Dà proprio l'idea di un gelato. Sentiamo. Cornetto San Montana, vedi, ci stanno. Ci sta. Dopo quando c'è fai lo spot. Sembra una canzoncina così, leggera. Adesso aspetta che ti voglio parlare per ringraziarti almeno ancora una volta, perché continui a raccontarmi le scene dei film eliminando una visione distorta. Per le lezioni non teoriche di scienze e anatomia, dammene ancora una volta. Che la mia mano ancora se lo ricorda, perché sicuramente ha visto più di me. Per le parole semplici tu lo sai, io non ho bisogno di interpreti. I miei occhi chiusi non li puoi cambiare, quindi non mi puoi considerare. Che se ho voglia di te, con i tuoi occhi un altro mondo vedrò. Ho voglia di te, solo ci sta uno spot favoloso, se lo rimetti il solo. Ah, di tornare indietro sul solo? Rimetti sul solo. Di quanto torniamo indietro? Di pochi 20 secondi. Adesso c'è tanto col computer lo possiamo fare, no? Perché siamo rimasti col microfono chiuso. Eravamo pronti per fare lo spot dei Riflessi, che sono qui a Edit Broadcast Italia. Ancora abbiamo prima Greg Mai, Carla al microfono, Edit al microfono con voi. Assaggia il gelato dei Riflessi, cioccolato, panna e tanta fantasia. Ma senti che influenza anche di Queen, eh? La chitarra è molto Brian May. Io sono quindi non mi puoi considerare anche se ho voglia di te. Con i tuoi occhi un altro mondo vedrò. Ho voglia di te. Si può partecipare ai cori dei dischi? Tra l'altro si può dire che il 75% dei componenti sei degli, anche no 75 praticamente si conoscono prima di questa esperienza perché hanno fatto parte dell'associazione coristica universitaria. Corale, forse è meglio. Forse è meglio, sì, corale. Corale Ars Nova. Non lo so, è corale o corista? No, secondo me. Oppure coreuta forse. Può darsi, capito? No, okay. Così sostanzialmente no, ci siamo conosciuti al coro dell'Università della Tuscia di Viterbo. Una serata. Chi portava il cestino col panino? Io. Due. Questa porchetta. No, praticamente una sera dopo le prove del coro mi ha parlato del gruppo. Ma io ho detto proprio. Nino, ma tu suoni la chitarra, io. Sì. Ma la batteria non porta suonare. Io ho detto, ma nel 96 per un paio di mesi l'ho suonato. Se poi ci provamo, capito? Ora viene solo la batteria con noi e canti pure, gli ho detto. Beh, che è stato un po' comunque come sono riuscito a trovare Stefano. Io stavo andando a portare dei volantini all'università di Amnesty International e ho una malattia che quando vedo le bacheche mi fermo e controllo tutto. E trovai un annuncio dove c'era un gruppo di cantanti che cercava un gruppo musicale che facesse da sottofondo perché loro facevano Beach Boys. Dissi, top. Infatti, cioè, dico, provo a sentire. Non li facevamo, avremmo voluto farli. Non li facevamo. Dico, provo a chiamarlo e rimasi colpito perché noi a quell'epoca avevamo bisogno di un chitarrista, eravamo senza chitarrista ritmico. E rimasi colpito da Stefano che cantava bene, la chitarra, diciamo. Qualche accordo lo sapeva fare, quanto basta per fare quelle canzoni dei Riflessi, appunto, che hai sentito. E tant'è che lui sul mio telefono è rimasto Stefano Bea, che sta per Beach Boys. Io l'ho presi lì dalla bacheca dell'università. Lui che invece era una festa di matrimonio, insomma, proprio, quindi anche lui era, come dire, un amico loro. Ma io comunque non lo... sì, era già nel coro dell'università. Sì, noi ci siamo conosciuti, noi tre nel coro dell'università. Stefano ci conoscevamo da quando avevamo 18 anni, avevamo suonato pure in altri gruppi. Insomma, sai, in una città piccola è tutto un po' mischiato, le voci girano. Poi Stefano non sembra, ma lui c'ha un po' un atteggiamento da padrino nel gruppo, un po' Don Corleone. Nel senso che va lì a parlare con la persona, sa riuscire a. È quello che si occupa delle pieghe. Ma infatti notate il carattere, che è proprio del padrino questo qui, insomma, il carattere. Prima è andato a parlare da Nicola, la denuncia di copyright. No, l'ho preso gratis da Indo. Prima ha convinto Nicola a suonare la batteria, poi è venuto da me che mi conosceva. Mi ha fatto una proposta che non ho potuto rifiutare e sono andato a suonare. Fa anche il parlamentare all'interno del gruppo, cioè lo mantiene sì. Unito. Ognuno ha un ruolo. Il leader ideologico. No, ragazzi, qui siamo di fronte, se e io spero, questi Riflessi diventeranno famosi, noi siamo al cospetto della nascita di un nuovo gruppo in assoluto. E grazie a David e a Broadcast Italia, a Edit questa sera, e ai Riflessi e a MySpace che ce li ha fatti conoscere e che ci ha permesso di farli venire qui, chi lo sa. Io sento che c'è qualcosa nell'aria, una cosa mi fa molto piacere. È stato Nicola. No, sono stato Nicola. La pizza con i peperoni prima. Sì, no, ma effettivamente. Alza un po' le scarpe? No. Chiudi l'altra cosa più che altro. Senti, un amore così o dammi la tua mano? Ah, guarda. O Primavera? Dammi la tua mano, l'abbiamo già ascoltata. O lei non c'è più. Primavera è un brano. Veramente, secondo me è bellissimo, l'ha scritto Enrico. Non l'abbiamo suonato per tanti mesi e non sia. È caduto un po' nel dimenticatoio, però c'ha un qualcosa. C'è presente anni 70, un pochino PFM, un pochino. Beh, non esageriamo, a mio avviso. Non avevo queste pretese all'epoca. No, però. Questa la teniamo. Quando finiamo, teniamo. Cioè, che tu c'hai fotografie come la. Il finale, la teniamo per il finale. Quando ci volete cacciare, mettiamo quella così vi stiamo più simpatici. Allora, ascoltiamo Primavera, number 10. Che brutta questa cosa dei numeri. Yeah! Bello questo attacco. sentimento diventa corpo. È troppo bello, io sogno, sogno. Stiamo disquisendo sulle influenze che... No, alza la musica. Sulle influenze che uno si porta dietro scrivendo, suonando i pezzi per il gruppo. E qui parlavamo dei Beach Boys, c'è stato un passaggio di dischi, qui stavamo discutendo su quello mi piace, quello non mi piace. In fondo io mi ricordo soltanto la copertina di uno dell'altro famoso, magari non ricordo più. Quindi tu stavi dicendo che ci sono dei pezzi dei Beach Boys. Io sono per l'album Friends, ha delle canzoni meravigliose secondo me. E tu invece? Pezzano. Io almeno uno dei due bisogna che prima o poi Friends. Mi sento. No, dicevi che ci sono dei pezzi incompiuti che sono presenta dei pezzi, sì, alcuni incompiuti, alcuni sono delle piccole sperimentazioni ma molto arrangiate, sia dal punto di vista vocale che strumentale, cioè anche la scelta dei suoni da usare, anche la scelta dell'arrangiamento vocale, lì ha raggiunto delle vette secondo me molto molto buone, cioè i Beach Boys già facevano musica corale già dall'inizio, però lì diciamo si espande un po' la scelta armonica, quindi è ovvio che la resa è migliore, insomma. I riflessi sono a Edit, a Broadcast Italia, e saranno a Roma il 16 novembre al Micca Club. Micca Club, 16 novembre 2007. A che ora vorreste suonare? So che suoneremo per poco tempo, ci hanno detto una cinquantina di minuti, massimo 60 con col bis. Tra l'altro ci hanno chiesto di suonare solo brani nostri. E questo ci fa molto piacere. Sì. Noi attualmente abbiamo... Ecco, non avete paura che venga qualcuno a chiedervi Sandy, mi suoni un pezzo? Che no, succede? Ma lo fanno continuamente. Lo fanno sempre. Tipo che ne so, ci hanno assillato. Oh, la sa fa Roma Capoccia. No, cose non è possibile. Abbiamo suonato una festa il 31 dicembre, ogni tanto veniva lì. Mi suoni Maracaibo? Mi fai Maracaibo? Luca tra un po' gli lanciava il legio contro a Zampale. Che tu dici, non lo so, che faccio? Spengo l'amplificatore, lo lancio da qualche parte? Sto facendo qui. Poi ti faccio vedere come finiscono le cacce di riflesso. Comunque, c'è un video inedito? Questa di fine agosto. Ma guarda, adesso, per noi è tutto inedito, nel senso non avendo nessuno che ci... Diciamo ci si fila. Che vabbè, la prima parte del concerto è stata normale, carina, all'aperto. Poi ci sono stati fuochi per festeggiare, dopo i fuochi lo staff sarà un po' allargato. questo è il palco nostro. Stiamo guardando un video dal telefonino. L'invasione di palco. Noi ci siamo vivi. È difficile riconoscerci, insomma. Ah, praticamente voi state suonando con la gente che balla sul palcoscenico. Sì, ovviamente i pezzi non li stavamo scegliendo per noi. Ci suonavamo due pezzi contemporaneamente su questo. sulla fascia destra di Gabù e sulla fascia sinistra Vasco. Beh, insomma, anche i primi Beatles, nelle incisioni che ci sono arrivate poi tantissimi anni dopo, ad Amburgo, no? Suonavano tra i bicchieri che volavano e che cadevano, praticamente quasi ignorati dagli astanti, che ormai erano ubriachi come cucuzze. Amici, riflessi a Edit, Broadcast Italia. Siamo alle ultime battute di questo splendido e piacevole... programma, no? Si può dire? Perché no, insomma, per me che non vi conoscevo, ho conosciuto un gruppo nuovo, un gruppo di giovani ragazzi che suonano, sanno quello che suonano quello che sanno. E, c'è qualcuno che ha reclamato una canzone, c'è stato già qualcuno che l'ha chiesta, dice voglio sentire Fotografie, perché? Perché non siamo stati noi a chiederlo, è il signore che sta dall'altra parte del vetro e vedo che insisteva per quel pezzo. Diciamo che è il pezzo che abbiamo notato che ha riscosso più successo fino adesso, è un pezzo del primo periodo del nostro gruppo, un pezzo che verrà presto rinciso anche con il nuovo chitarrista, appunto Luca, qui presente. Perché comunque l'arrangiamento attuale è un po' differente. Un pochino modificato. Diciamo che ovviamente necessariamente il nuovo chitarrista porta un nuovo suono e siamo molto contenti di questo, insomma. Comunque diciamo che sostanzialmente il brano è quello e ci piace comunque ancora ascoltarlo anche così, poi vedremo come verrà registrato. No, ma non è che è cambiata la struttura, è cambiato qualcosa, solo il suono forse leggermente, per dirlo alla British, soli, più wet, un pochino più soli diversi, Guarda, sono frammenti che cambiano la temperatura di un brano. Io mi ricorderò sempre, adesso per parlare di un'altra cosa, ebbi la fortuna di vedere Ennio Morricone mentre incideva un brano musicale su una clip di un film. Passava la scena del film, lui dava la partenza all'orchestra e l'orchestra suonava. No, c'era un omone muscoloso, non so, uno di questi film tipo Hercules, così, no, doveva essere degli anni Ottanta. E a un certo punto lui ha fermato il gruppo orchestrale e ha cambiato una minima linea di contrabbasso ed è cambiata completamente la temperatura. Quindi non vuol dire, il pezzo magari è identico, lo stesso, però c'è un'altra persona che lo suona, un'altra anima che, beh, no, questo è vero, sicuramente che arriva, quindi qualcosa cambia di sicuro. Un altro spirito adesso, questo è indubbio. Ok, allora lo ascoltiamo? Sei pronto, Max? Max è alla console. Non ti abbiamo detto il numero? Ah, non te l'abbiamo detto, è il numero 6. Broadcast Italia. Riflessi. Oh, ancora una volta, Lady Johnson, Blanky Batch and Plum, Giddy Otto, Riflessi, on the radio, on Broadcast Italia, appunto, ET, Riflessi, now. Di panorami in città le cerco, ma io non le trovo perché non c'è più nulla, non c'è più niente da trovare. Nella mia stanza c'è un disordine totale. Oh, c'è qualcuno qua, è meglio andare. Voglio scappare, accendere il motore, la valigia e la chiave. Me ne sono sbarazzato, se della CIA, comunque l'ho fregato, ma adesso basta, ho degli impegni in sospeso. D'accordo capo, problema eliminato. Non ho lasciato alcuna traccia, ma ho un pensiero. Dio mio è vero, Dio, il microfilm, vai! Riflessi notevoli, no? Dico, avete sentito come suonano questi ragazzi? No. Siamo molto contenti a Edit, siamo molto contenti a Broadcast Italia, siamo molto contenti. Loro sono contenti? Molto, molto. Sì. È la prima volta che ci capita di fare una cosa e ci piace molto l'ambiente, almeno vi parlo di siete no, contenti di essere venuti qui? Sì, molto. I riflessi sono, allora, Luca Pepe, giusto? Sì, eccomi. Funzionano questi occhiali. Luca Pepe alla chitarra solista. Enrico, si possono dire i cognomi? Certo, sì. Ce la fai a leggere? No, no, io non ce la faccio con questi occhiali nuovi. Di Pierro, sono un po' anziano. Enrico Di Pierro al basso. Stefano. Niente, questi occhiali non valgono una ceppa. Stefano è facile, però. Dove? Stefano è facile, dillo tu, Stefano. Stefano Stefanoni, ovviamente. La chitarra ritmica e voce. E Nicola Nencini, batteria e voce. C'è una voce, lui, che mi ricorda un cantautore italiano che suonava in coppia con un altro, si chiama Loia Altomare. E la sua voce mi ricorda uno dei due. Pensavo quando... Santo Giovanni. Forse no, l'avrei sentito perché lui faceva gli spot Giovanni. Radiofonici. Pubblicitario, c'è una voce che si presta a molte interpretazioni. Non so se si possono fare nomi dei prodotti o cose. Ma perché? No, vabbè, no, sostanzialmente niente. Sì. C'era nel nostro repertorio un brano che è Speedy Gonzales, sì, che non so se conosce la versione originale. A un certo punto si sente. Le Bad Boon? Sì, esatto. Sono le frasette del. Tutto in spagnolo. Così ti fanno quelle cose che c'è in Winston. Lo spagnolo non lo so, allora abbiamo pensato. Vabbè, faccio francese, spagnolo, mica posso fare tutto. Ma non è difficile, guarda. E was it con Quick Dolly di Cantina del Killing Green, Stands with Tequila. No, ci devi venire con noi. Concerto. Posso farlo? Sì. Però senti, noi cosa ci mettevamo al posto? Allora ci mettevamo tipo... Vuoi rinnovare la tua casa? Mobilificio Il Gazebo, è l'area di Corciano in Roma. E poi partiva... La la la la. Oppure hai ancora... Calzature Dorè, a Corso Cavour 31, a Orvieto. Esatto, queste cose che a voi magari non dicono niente. Chi sta a Orvieto le conosce, perché al cinema mettono sempre queste pubblicità. È il tormentone. Sì, è tremendo. Tra le patatine e i popcorn, il tormentone prima dal cinema. Il cornetto appena fatto. Vabbè, quindi... Allora, io direi che possiamo... Faccio uno spot per Broadcast Italia, no? Dici? Lo chiediamo, uno spot per Broadcast Italia? Sì, noi siamo sempre alla ricerca di uno spot per Broadcast Italia, un jingle. Ah, un jingle, beh, siamo contenti di comporlo, però adesso così al volo, non so, magari meglio la sua voce... se non so, con qualcosa. Un testo, ne so, scritto, se non improvvisato viene un po' un pasticchiato, non so. Siccome... Davide, inventa un testo, per favore. Sì. Inventa un testo per i riflessi. Io sposto la cuffia, che sennò fischia il mic. Come esce fuori che non sai leggere? Sono alfabeto. No. Ah, lui sta scrivendo? Ah, ecco, tu non. Senti, noi abbiamo praticamente finito di ascoltare i brani che vi piaceva di più far ascoltare. O sì. C'è qualche cosa che è rimasto lì che magari non sarebbe spiacevole? Tentazione, sentire? Però non lo so. Che c'è un amore così? Sì, un amore così, basta. Ma io penso che, non so, possa anche essere sufficiente. Abbiamo non so, forse tentazione possiamo farla sentire, ma anche quello, diciamo, quella subito veramente perché non senti, c'è qualcosa dal vivo. Quella dal vivo è meglio. Di tentazione. No. Tentazione dal vivo non c'è. Che c'è? Facciamo le prove di Zuguadaneo. Zuguadaneo. È meglio questo non di Zuguadaneo. Io voto per Zuguadaneo. Ma dai. Però guarda, pure Zuguadaneo fa. Stiamo insistendo in diretta a una consultazione. Io vado per Zuguadaneo. Gruppo. Ragazzi, chi non vota con me esce dal gruppo, dai. È così che funziona un gruppo, eh. Cioè, certo, cioè, ma infatti esattamente quello che avete sentito. La settimana prossima cambieremo. Cambieranno me, infatti. Ma scusa, metti una così. Ma scusa un attimo, io dico, durano così poco, mettiamole entrambe. Non metti quello che te fai. Cioè, sapevo portavo 2-3 chitarre, io. La prossima volta che venite portate gli strumenti. Sono quelle dopo la numero 13. La prima è la Zuguadaneo. 14 è Zuguadaneo. La 14, mi sa. Consultazione con la regia. Sì. Senza la prova. Riflessi. Questo suona dal vivo. Riflessi. Lascia pure aperti i microfoni, intanto commentiamo, se ci va. Questa è una delle canzoni che rientra nel filone di Non Palp. No, Nicola. Aspetta, Gico, ti ha dato di più vai in giro. Perché qui c'è la faccia della volpe. Si guarda Leo, partito da... E lui pensava fosse un'isola, tra l'altro. Non lo dico più che cos'è. Però... perché si è scoperto che non è manco. Però non lo sa nessuno che c'era questo posto. Invece è presa praticamente da un film molto bello. Non so se l'hai visto, Le ali della libertà. Le ali della libertà. Sì. Lo doppiava. No, ho perso il provino. Ah, per fare lui. Bravo, lo faccio ripensare. E niente, poi alla fine lui praticamente quando scappa, Tim Robbins va appunto in quest'isola che è Zuguadaneo. Isola? Secondo me è un'isola, non è una costa, sicuramente c'è il mare vicino. Località. E beh, questa è una storia di gangster, uno che fugge da Zipataneo. E poi c'è lo stacchetto, sì, Zipataneo, c'è lo stacchetto un po' hawaiano. Comunque, pezzo. Tutti questi pezzi possono essere ascoltati su internet, perché sono tratti da dei video che stanno su YouTube, quindi basta andare su YouTube e cercare Riflessi, oppure anche dal nostro sito, sui video si trovano. Senti, ma questi sketch che state facendo adesso qui, voi li fate dal vivo? Questi sketch sono molto peggio dal vivo. No, tu consideri che questi non li reputiamo sketch, quindi quando facciamo gli sketch siamo ancora più tristi, insomma. A che punto siamo arrivati della canzone? A metà, ok. È quasi finita. Ancora non c'è stata la parte hawaiana. No, beh, ecco, questa è bellissima, perché questo arrangiamento hawaiano inventato da Stefano è tutto molto bello. Sbaglio, perché da Stefano non vorrei... No, va bene, non l'ha musicato lui. Su Broadcast Italia, la musica che gli altri trasmetteranno tra qualche mese, forse. Broadcast Italia, la musica che le altre radio non trasmettono. Nuova su Broadcast Italia, la musica che gli altri trasmetteranno tra qualche mese, forse. Bellissimo, bellissimo. Senti, vedi un po', scusa, senti le altre magari, che così ti diciamo se vanno bene oppure no. Questa è la sua, vai avanti. Questa l'abbiamo sentita prima. Ti do la cuffia così. Grazie. Puoi ascoltare meglio. Il clima è diventato extra amichevole, siamo in studio praticamente scegliendo i brani. Cosa succede poi in sala di incisione? È questa questo anche da me. Perfetto. Sguardi duri e muscoli in asta, tutti lucidati ed abbronzati. L'anno scorso, cioè due anni fa, ci dissero proprio: guardate, la serata la copriamo, sono 4 ore. Noi eravamo disperati, infatti cominciamo a provare dei pezzi così anche in 2 giorni, pezzi acustici, e ci divertiamo un sacco, e comunque la gente si distrusse di alcol, così è bellissimo. E l'anno dopo, appunto, è stato quest'estate, ci dissero: no, ragazzi, quest'anno comunque fate un paio d'ore, un paio d'ore e mezzo. E invece è andata, ovviamente, come visto sul video, appunto, gente sul palco che cantava di tutto, di più, insomma. Sì, perché loro ovviamente funzionava birra sulla batteria, ragazzi, sul video. Perché una certa, questi ragazzi che facevano, diciamo, una specie di prologo del paese, a una certa ora, quando avevano guadagnato, perché la gente stava a cena, si vede appena guadagnato quello, no, che quando la gente stabilito, è andata a vedere poi i fuochi, i fusti aperti, la festa si espande, e quelli che hanno lavorato fino a quel momento, sì, sono diventati, esatto, ti divertono. Guarda, la gente è simpaticissima, incontenibile, no? Lo staff incontenibile a un certo punto si sfoga. Guarda, è ovvio che a me prende un po' male quando trovi a dover suonare, che ne so, Ligabue oppure... Però, insomma, se la fai in quel contesto ci può pure stare, è divertente, insomma, vedere la gente che è allegra e che canta un po' di tutto dopo che ha fatto... Abbiamo fatto anche il V2... V2, ma improvvisati lì per lì. Quindi cover ce ne avete, in sostanza? Ma noi di cover abbiamo un repertorio sconfinatissimo, cioè andiamo dai Beatles, ai Beach Boys, ai Searchers, ai... Jerry Lewis, Elvis... C'è un brano in particolare o due che vi piace particolarmente riarrangiare e rifare? Beh, diciamo che riarrangiare non saprei. A me Masters piace un sacco. Sì, abbiamo fatto un brano che è conosciuto per via della pubblicità. La pubblicità che gira in questo momento. Heartache. Fighissimi, questo gruppo è uno dei pezzi simpatico, ha fatto dei bei pezzi, quello che faceva anche Blue Moon, non so se ti ricordi. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love on my own. Blue moon, you know just what I was there for. You hear me saying a prayer for someone I really would care for. And sadly appear before me, the only one my heart will ever own. As somebody whisper please adore me, and when I look to the moon it's time to go. Bobby McFerrin, hai un valido gruppo con cui poter suonare il prossimo grandioso anno, Bobby McFerrin, sì. Lui il problema è che da solo fa tutti e quattro noi quello discorso contemporaneamente e fa anche la batteria, però se lo ospitate sono sicuro che lui viene. Se lo ospitiamo, sì, è una vostra incisione in un vostro disco, sono certo che lui viene. Sì, pagate, qualcosa da mangiare. Bene, io penso che possiamo salutare i nostri amici a questo punto, perché se no andremo avanti a oltranza, che potremmo fare alle 2 di notte. Sono stati insieme con noi e con voi che ci avete ascoltato e che ci ascolterete domani e dopodomani e dopodomani ancora, I Riflessi, un nuovo gruppo. Ci hanno presentato solo poche ore, che è un assaggio di quello che sanno fare. E diciamo che dal vivo saranno ancora a Roma, dove? Il 16 16 novembre al Mica Club. Sono a Termini. Al Mica Club il 16 novembre, tutti a sentire I Riflessi. Ragazzi, mi raccomando, fatemelo sapere, non me lo fate dimenticare. No, vieni sul sito e vedrai che sarà... 17 novembre. 16 novembre al Mica Club, Mica come Pietro Mica, sì, non sì, quello sì, con sì. 2K allora, no, no. Mica Club a Roma, intorno alla zona Termini, I Riflessi. Allora, grazie per essere stati con noi. Sono stati con noi nell'ordine: Stefano, Nicola, Enrico, Luca. Enrico, mi piace quello, vero? Che oh, io faccio Enrico. Allora, un saluto a tutti quanti, grazie per averci ascoltato. Chiudiamo con di nuovo con un brano che è piaciuto tantissimo sia a quelli che hanno cliccato il sito dei Riflessi e sia ad alcuni di noi. Si chiama Fotografie, Riflessi. C'è un disordine totale. c'è qualcuno qua. È meglio andare. Voglio scappare, accendere il motore, la valigia e la chiave. Non so chi sia, me ne sono sbarazzato, sei della CIA. Comunque l'ho fregato, ma adesso basta. Ho degli impegni in sospeso. D'accordo capo, problema eliminato. Non ho lasciato alcuna traccia, ma ho un pensiero. Dio mio è vero, Dio, il microfilm, il microfilm, il microfilm, vai! Broadcast Italia ha presentato Edit. Avete ascoltato la replica di Edit del 29 settembre 2007. Ospiti i riflessi.